perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il governo è culo e camicia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Tutti i cavi, tutte le frequenze. Più tecnologia adoperi e più è facile per loro controllarti. Datagate, 70 milioni di telefonate di francesi intercettate in un mese, scontro tra Parigi e Washington, il ministro Fabius convoca l'ambasciatore americano, l'audio che avete sentito naturalmente è da un film, Nemico pubblico, nel quale si parlava anche di queste storie. Legge di stabilità, 4 ore di sciopero proclamate dai sindacati, Squin si dice spero che non ci siano porcate all'atto delle modifiche parlamentari. Maradona fa il gesto dell'ombrello a Equitalia durante la trasmissione di Fazio. Il viceministro Fassina a Radio 24, un gesto miserabile. A Modena, violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni, stuprata da compagni di scuola ad una festa tra quelli che credeva amici. L'hanno fatta bere e poi hanno abusato di lei. La Roma in fuga, la batosta della Juve, la tripletta di Pepito Rossi, ritratto del weekend di campionato. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. L'audio introduttivo, l'avete capito, è il nostro tema di apertura. Il cosiddetto Datagate, ossia lo scandalo che ha portato alla luce l'enorme raccolta di informazioni mondiale messa in atto dalla National Security Agency americana. Le Monde ha rivelato questa mattina che nel giro di un solo mese sono state intercettate 70 milioni di telefonate di cittadini francesi. Secondo quello che scrive il quotidiano, quando certi numeri di telefono vengono usati in Francia, questi attivano un segnale che fa scattare automaticamente la registrazione di alcune conversazioni. Questa sorveglianza recupera anche gli SMS e il loro contenuto in base a parole chiave. Il ministro degli esteri Fabius, come già vi dicevamo nei nostri titoli, ha convocato immediatamente l'ambasciatore americano. Di tutto questo torneremo a parlare tra poco per chiederci soprattutto quanto è possibile che fatti di questo genere siano avvenuti anche in Italia, altro partner strategico degli Stati Uniti. Ma andiamo ancora una volta alla legge di stabilità e ai dubbi che continuano a sorgere sulla manovra che è approdata a Bruxelles. La Commissione europea finirà l'esame entro il 15 di novembre. Intanto parla ai microfoni di Mix 24, intervistato da Giovanni Minoli, il vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che nei giorni scorsi aveva minacciato le dimissioni. Ascoltiamolo. Le tasse le dobbiamo ridurre, la nostra anomalia è il livello di evasione. Noi abbiamo un'evasione che è il doppio della media europea. Se teniamo da parte l'evasione di sopravvivenza e andiamo a colpire i signori Maradona, noi recuperiamo 50 miliardi l'anno, possiamo ridurre le tasse e possiamo costruire asili nido. Ma non sono troppe le tasse comunque in Italia su chi, per chi le paga? Assolutamente sì, è una priorità, è un'emergenza nazionale la riduzione delle tasse, bisogna farlo colpendo le cause vere e tra le cause vere c'è il livello abnorme di evasione rispetto alla media europea. Ha paura che oggi i sindacati decidano lo sciopero generale? Sarebbe un errore. Perché? Perché il governo Letta, come tutti i governi europei, si trova a muovere dentro vincoli stringenti e tutti dobbiamo avere consapevolezza. Senta, cadono ancora i governi per uno sciopero generale? Potrebbe essere un momento molto difficile, non credo che potrebbe portare alla caduta del governo, ma sarebbe certamente un problema politico serio. Quando li incontra? Da domani iniziano i passaggi in Senato. Ieri Maradona, a che tempo che fa? Ha fatto il gesto dell'ombrello rispetto al, come dire, alla richiesta proprio di Equitalia di, mi sembra, 40 milioni di euro, non vorrei sbagliare, a cui è stato condannato, che è stato condannato a pagare. Ha fatto praticamente, l'ha mandati. È un'evasione di sopravvivenza? Anche no, è un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione. Stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro e Maradona farebbe bene a imparare a rispettare le leggi. Come avete sentito, Fassina auspica che i sindacati non proclamino lo sciopero generale. In realtà l'auspicio arrivava questa mattina, prima dell'incontro tra CGIL e CISL e UIL, che poi si sono incontrate e hanno deciso per un'agitazione, forse non proprio uno sciopero generale, ma quasi. Riccardo Porcù, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, scioperi, sono stati indetti scioperi territoriali di 4 ore, con date decise a livello locale, da qui a metà novembre. I sindacati quindi si sono, CGIL, CISL e UIL, si sono presentati uniti, hanno risposto così con un no netto alla legge di stabilità. Domani in commissione al Senato, troppo poco per la legge, questa legge per i sindacati. in base alla quale, secondo i sindacati, la legge deve avere un solo obiettivo, la crescita. Come? Con la riduzione degli sprechi e dei costi della pubblica amministrazione. Le risorse devono essere destinate alla riduzione delle tasse sul lavoro e per i pensionati, per far ripartire l'economia. Dobbiamo mettere in campo la nostra forza, ha dichiarato il segretario Willa Angeletti. Servono riforme istituzionali e amministrative e fondi per i cassi integrati e degli esodati, ha risposto, ha aggiunto il segretario CISL Bonanni. Duro anche il commento della segretaria, del segretario della CGIL, Susanna Camusso. Sentiamo le sue parole. È chiaro che se, dopo tutti gli annunci e le promesse, la legge di stabilità è stata confezionata in questo modo, vuol dire che non c'è la sufficiente convinzione nel governo che bisogna cambiare passo. Ed è esattamente per questo che noi sosteniamo queste rivendicazioni di cambiamento con un pacchetto di 4 ore di sciopero che verrà gestito nel territorio e nelle regioni, che sostiene queste rivendicazioni e che accompagnerà il percorso di confronto ovviamente con i capigruppo, con i gruppi parlamentari. E approda appunto la legge di stabilità al Senato nella giornata di domani. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. È così inizio di settimana e lo abbiamo sentito di fuoco incrociato dalle parti sociali sul governo in concomitanza dei primi passi della legge di stabilità in Parlamento. E allora il Presidente del Consiglio Letta, intervenendo qui in Confindustria sull'agenda digitale, ha mandato un messaggio preciso: è necessario mettere da parte i particolarismi, le decisioni vanno prese e portate avanti e questo metodo ci agevolerà per le prossime decisioni. Il rischio è che si blocchi tutto. Ma sentiamo Letta su questo passaggio. Il tema di fondo è quello di partire sciogliendo i nodi, di dire qual è la gerarchia, chi comanda, se si fa così penso che si riesce a risolvere i problemi. Penso che è quello che voi fate nelle vostre aziende ogni giorno. Se voi doveste essere costretti nelle vostre aziende a dire che comandano un po' tutti, penso che non portereste a casa nessuno dei risultati che volete portare a casa. Nella pubblica amministrazione questo è, secondo me, forse il più grande dei problemi. Quanto all'agenda digitale, Letta ha ribadito l'obiettivo che è quello di Confindustria, fare sì che dopo il Fiscal Compact si arrivi al Digital Compact a livello europeo, strada questa per aumentare e rilanciare l'occupazione giovanile che, parole di Letta, è l'incubo nazionale perché le nostre percentuali sono da paese senza futuro. Solo così, ha detto il presidente di Confindustria Digitale Stefano Parisi, possiamo vincere arretratezza e resistenza all'innovazione riportando l'Europa sulla via della crescita. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Naturalmente le tensioni che partono soprattutto dalla manovra non si ripercuotono solamente nei rapporti tra le parti sociali e l'esecutivo, ma naturalmente anche nei rapporti all'interno della maggioranza. Sentiamo cosa succede. Non c'è solo la legge di stabilità, anche le vicende giudiziarie di Berlusconi e le grandi manovre al centro alimentano nuove tensioni nella maggioranza. In attesa del voto in Senato sulla decadenza del Cavaliere, il segretario del PDL Alfano ieri è tornato all'attacco sulla legge Severino. È inaccettabile che venga applicata in modo retroattivo, ha ribadito il vice premier, che ha chiesto anche al PD di rivedere la sua posizione. Sembra invece un'uscita isolata quella di Daniela Santanchè, che sempre ieri ha dato del traditore al presidente Napolitano. Parole subito stigmatizzate dal PD, ma a prendere le distanze dalla pitonessa è stato anche il suo partito, il PDL. Oggi sono molte anche le reazioni alle parole dell'ex premier Monti, che dopo lo strappo con Casini ha attaccato il governo Letta accusandolo di essersi inginocchiato di fronte alle richieste del PDL, in particolare a quelle sull'IMU. Monti fa tristezza, prima esce di scena, meglio è, gli risponde oggi senza giri di parole dal PDL Brunetta. Questo governo non è piegato agli interessi di nessuno, commenta invece il ministro della giustizia Cancellieri, voluta come responsabile del Viminale proprio dal professore nel suo esecutivo. Penso che quello di Monti sia stato un momento di scoramento che forse non è stato compreso a fondo, aggiunge poi la guardasigilli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Non è chiaro cosa si prefigge di ottenere Mario Monti con le interviste più o meno sferzanti con cui dà sfogo alla sua ira contro Enrico Letta e i due maggiori partiti. Non si capisce se si tratta di una testimonianza o di un'azione politica. Se è una testimonianza, magari di coerenza, si può apprezzarla, ma resta una voce isolata e come tale poco concreta. Se invece vuole essere un'iniziativa politica, allora la domanda è: perché il professore vi si dedica dopo aver lasciato andare in pezzi il suo partito, Scelta Civica? Forse era meglio consolidare prima la base politica che c'era e poi passare all'attacco. L'impressione è che Monti veda il declino di Berlusconi e voglia inserirsi nello spazio che si apre, rivendicando anzi di essere stato lui il primo a immaginare una destra moderata ed europea legata al Partito Popolare. Ma questa appunto è solo una testimonianza se non si dispone di una decente forza politica. Altre vicende, passiamo ad altri argomenti, quelli che riguardano Lampedusa. Noi rispettiamo le leggi nazionali e internazionali sull'immigrazione, ma anche i migranti devono rispettare quello dello Stato che li ospita. Così ha parlato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nel giorno di una cerimonia che ha sollevato molte polemiche, quella per le vittime appunto del naufragio di Lampedusa. 18 giorni dopo il più tragico dei due naufragi e con le bare ormai tumulate, Agrigento si prepara a dare l'ultimo addio alle vittime, circa 400, del 3 e dell'11 ottobre. Sul molo turistico del porto di San Leone alle 16 sono attesi il ministro dell'Interno, Alfano, e quello dell'Integrazione, Chieng, oltre agli ambasciatori di alcuni paesi dai quali provenivano i migranti. Non ci saranno i feretri, non ci saranno i familiari e nemmeno il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, che ufficialmente in quelle ore incontrerà a Roma il presidente Napolitano. Una cerimonia tardiva e ben diversa da quanto annunciato il 9 ottobre dal premier Letta, che per le vittime aveva promesso funerali di Stato. E che sta suscitando non poche polemiche. Di passerella per politici parla ad esempio il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, che pur parteciperà alla cerimonia. Dello stesso avviso Don Zerai, il sacerdote eritreo che da anni rappresenta un riferimento per i profughi. Polemiche alle quali risponde il ministro dell'Interno. Abbiamo assicurato, dice Angelino Alfano, una assistenza ai superstiti e una degna sepoltura ai morti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un breve aggiornamento sulla situazione del maltempo che sta investendo la Toscana. Ci sono frane, allagamenti, fiumi in piena. A quanto pare c'è un disperso a Siena, l'autista di un furgone che si è ribaltato finendo in un fiume. Se avremo altri aggiornamenti ve li daremo. Ora una brutta storia, una brutta storia che arriva da Modena. L'hanno convinta a bere a una festa in casa tra amici per poi approfittare a turno di lei, vantandosene. Questo accadeva ad agosto, in una delle ville della cosiddetta Modena Bene. Fino ad oggi però il silenzio dei testimoni, degli amici, degli inquirenti. Poi la svolta. 5 studenti modenesi tra i 17 e i 18 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. La ragazza appena sedicenne tornata a casa aveva trovato il coraggio di raccontare la violenza alla madre e di sporgere querela contro i compagni di scuola, che lei considerava addirittura amici e che fino ad oggi ha dovuto incontrare tra i corridoi. Qualcuno dirà che forse era consenziente, che un po' se l'è andata a cercare, ma gli accertamenti investigativi di questi mesi e le visite mediche, pur non parlando di percosse, confermano l'accusa di stupro. E ci sono anche i testimoni che raccontano di come i 5 l'abbiano trascinata ubriaca in bagno, facendo a turno il palo di fronte alla porta. Per il processo ora sarà decisivo l'esito dell'esame del DNA prelevato sui ragazzi. Valentino Innocente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I dati segnalano un incremento di violenza tra gli adolescenti, torneremo a parlarne tra poco con una psicologa che se ne occupa. Noi torniamo però all'economia adesso, siamo quasi in chiusura di questa prima parte e di quello che si prevede per quanto riguarda gli statali. Senza contratti, tagli del 10,5%, la conferma per il quinto anno del blocco degli stipendi fa aumentare gli effetti in busta paga, sentiamo. Fino a 4-5 mila euro lordi all'anno in meno per un impiegato e fino a 21 mila euro il sacrificio per un dirigente. È il conto del blocco dei contratti e degli stipendi individuali dei dipendenti pubblici, che la legge di stabilità varata la scorsa settimana dal governo conferma anche per il prossimo anno. Il prossimo, se il Parlamento non cambierà la norma, sarà quindi il quinto anno di congelamento contrattuale per gli statali e gli effetti in busta, appunto, si fanno sempre più pesanti. Ma non c'è solo questo. La legge di stabilità 2014 amplia il meccanismo dell'erogazione a rate per la buonuscita, prevedendo il pagamento in 2 anni se l'indennità supera i 50.000 euro e in 3 anni se si sale oltre quota 100.000 euro, con il risultato di ampliare la perdita in termini di mancati interessi per il ritardo dei versamenti. Il menù ovviamente non piace ai sindacati, che annunciano agitazioni. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma, Roma. E adesso, con la massima faziosità possibile per un conduttore di un programma di informazione, fateci raccontare questa nuovo fine settimana di campionato. Dai! Già quando cade la Juventus fa rumore, figuriamoci questa volta, travolta con 4 gol in un quarto d'ora. Roba da non capirci più niente, difatti Conte poco ci capisce, se non che son cavoli amari, soprattutto alla vigilia della sfida con Real Madrid, quello di Ronaldo, Pepe, Benzema e altri fenomeni paranormali. Arrivederci Roma, quindi, già in fuga con 5 punti di vantaggio e 8 vittorie su 8. Davvero un campionato da record, visto che mai la Juventus aveva incassato 4 gol dopo averne segnati 2. Bella la favola di Pepito, che fa rima con Pablito, anche lui Rossi, anche lui autore di una tripletta al Brasile che spianò la strada alla nazionale di Berzot nell'82. Brava anche la Fiorentina, che ha creduto in un ragazzo che è stato fermo 2 anni per 2 operazioni al ginocchio. Ora i viola hanno un gioiellino in casa, e così ce l'ha anche Prandelli, preoccupato però dalle distrazioni difensive di Buffon e company, perché se suona la campana della Juventus, suona anche quella della nazionale. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Datagate, ci sono 70 milioni di telefonate di francesi intercettate nel giro di un solo mese. Si apre uno scontro tra Parigi e Washington, il ministro Fabius ha convocato l'ambasciatore americano. Legge di stabilità, ci sono 4 ore di sciopero proclamate dai sindacati. Squinzi dice: spero che non ci siano porcate in Parlamento. Parla nel frattempo il presidente del Consiglio, Letta, che dice: la disoccupazione dei giovani è un incubo nazionale. Maradona fa il gesto dell'ombrello a Equitalia durante la trasmissione di Fazio, il viceministro Fassina a Radio 24, è un gesto miserabile. E noi veniamo in apertura di questa seconda parte a parlare di, del caso che vi abbiamo raccontato in arrivo da Modena. Il caso di Modena, dove è successo che in agosto una ragazzina di 16 anni durante una festa, come avete sentito, in una villa o in una casa della cosiddetta Modena Bene, è stata fatta ubriacare ed è stata stuprata a turno da quelli che riteneva evidentemente essere dei suoi amici. Il caso è venuto fuori oggi, così come le testimonianze. Forse quello che ci impressiona di più in assoluto è il silenzio che c'è stato fino adesso in questi 3 mesi. Barbara Forresi, psicologa, coordinatrice del Centro Studi di Telefono Azzurro, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuta. Allora, io voglio chiederle innanzitutto se da quel che risulta a voi c'è un incremento di casi di violenza tra adolescenti negli ultimi anni. Ah, assolutamente sì, sia per quanto riguarda i dati relativi agli abusi sessuali arrivati al servizio di emergenza gestito dal telefono azzurro, che è il 114, che ci mostrano non soltanto un aumento nel numero delle vittime, ma anche un aumento nel numero di adolescenti autori di abusi sessuali, che passa dal 6,4% del 2008 al 14% nel 2012, quindi parliamo quasi di dati che raddoppiano. Quello che però vorrei dire è che questo caso si colloca all'interno di un contesto ampio di violenza che è diversificata e che copre diversi ambiti, per cui non sono soltanto gli abusi sessuali, ma c'è una violenza che per esempio avviene all'interno dei contesti scolastici. C'è una violenza che avviene in internet, si parla sempre più spesso di cyberbullismo. Forresi, sì. Ci spiega come mai, è la cosa che io continuo a chiedermi da quando ho letto di questa vicenda, ci spiega come mai questo silenzio, come mai 3 mesi di silenzio su un fatto così avvenuto, come dire, quasi di fronte a una serie di testimoni, comprese le amiche di questa ragazza che erano andate alla festa con lei? Ma io credo che, come dire, il silenzio in questo caso vada anche un po' forse capito all'interno delle indagini che si sono dovute svolgere, però cioè, l'elemento importante su cui mi sembra interessante riflettere è che questo è un caso in realtà che ne rappresenta molti altri, è esemplificativo. Non c'è una classe sociale non c'è una classe sociale particolare dove queste violenze si verificano, quindi non sono soltanto violenze che si verificano nei contesti degradati. E l'elemento comune, il comune denominatore che emerge da questa storia e da tante altre storie di violenza tra coetanei è proprio la mancanza di percezione della gravità di quello che stava accadendo. Quindi quello che lei mi chiede in realtà mi porta anche a dire come mai questi ragazzi si sono vantati di quello che avevano fatto, perché questo è l'elemento che poi mi ha colpito di più forse oggi leggendo i giornali, e che è caratteristico di molte storie di violenza tra adolescenti. Forse come adulti dovremmo riflettere su questa mancanza di empatia, ma anche su questa difficoltà che i ragazzi hanno di distinguere tra bene e male, tanto che arrivano a vantarsi di una violenza sessuale come di un atto di bullismo. Grazie Barbara Forresi per essere stata con noi, e io saluto il nostro prossimo ospite, che è Claudio Fava, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, componente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. Buongiorno Fava. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Con lei vogliamo parlare invece di questa vicenda del Datagate. Lo abbiamo detto e lo abbiamo riassunto: 70 milioni di telefonate di francesi intercettate solamente nel giro di un mese, una capacità di controllo anche sui testi degli SMS. Però quello che le vogliamo chiedere è se secondo lei ci sono serie possibilità, perché poi, mi consenta l'espressione, il casino politico a un certo punto scoppierà su questo, che questo sia avvenuto anche con l'Italia, altro partner fondamentale per gli Stati Uniti. Mi sembra chiaro che questo è avvenuto anche con l'Italia. Se si va a leggere tra le righe dell'articolo di Le Monde, si offre un dato puntuale su cosa avveniva con la Francia, ma ricordando che lo stesso sistema di raccolta a strascico di dati in base ad alcuni sensori, telefonate ad alcuni numeri, mail ad alcuni indirizzi, è stato fatto anche nei confronti di altri paesi, cosa che peraltro non è stata smentita dai vertici dei servizi di intelligence americani con i quali abbiamo avuto una serie di incontri 2 settimane fa a Washington, e ci hanno spiegato che il loro scrupolo è stato anzitutto quello di rispettare le leggi americane sulla privacy e naturalmente intervenire a tutela della sicurezza del paese e della lotta contro il terrorismo internazionale. Che tutto questo confligga con le leggi nazionali di paesi alleati è un punto di vista che loro non hanno, ma che dovremmo avere noi, e su questo c'è qualche incertezza delle nostre strutture di intelligence e anche la funzione che dovrebbe esercitare il governo in questo senso. Fava, nei prossimi giorni avrete una serie di audizioni importanti, tra le quali quella del sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti. Che cosa chiedete al governo? Una maggiore chiarezza, suppongo. Maggiore chiarezza e anche maggiore, se mi è consentito, autorevolezza. Noi abbiamo appreso, naturalmente, come tutti, da fonti di stampa, come sta avvenendo adesso in Francia, alcuni mesi fa, che persino l'ambasciata italiana a Washington era, diciamo, sotto intercettazione. Ci saremmo aspettati un gesto di chiarezza da parte del governo. Vedo che il ministro dell'interno francese convoca l'ambasciatore americano a Parigi, quando noi alcuni mesi fa abbiamo chiesto ai servizi e al governo quali misure intendessero mettere in campo, quali conseguenze intendessero trarre. Ci è sembrato l'atteggiamento fosse abbastanza tiepido, e soprattutto anche da quello che abbiamo saputo da fonte americana a Washington, i servizi italiani sono sempre stati perfettamente al corrente di questa attività di monitoraggio che interveniva pesantemente anche nella privacy delle comunicazioni di cittadini italiani. Grazie Claudio Fava, deputato di Sinistra Ecologia Libertà e componente del COPASIR, per essere stato con noi. Buona giornata. Naturalmente buon lavoro. Noi adesso, prima di andare in pausa, ci dedichiamo all'inchiesta di Daniele Biacchessi, tutti i lunedì e tutti i venerdì. Oggi ci parla dei Black Bloc. Quello dei Black Bloc è un vero e proprio mistero. Appaiono e scompaiono nelle piazze mondiali da ormai 14 anni, poi riappaiono d'improvviso per poi tornare in sonno. Non hanno sedi ufficiali, sono una sommatoria di sigle che si relazionano tra loro attraverso forum, social network, intranet. Quando escono dal silenzio organizzano scontri durissimi con le forze dell'ordine. L'unico riconoscimento è un abbigliamento rigorosamente nero. I Black Bloc sono dunque ancora oggi un mistero che si porta dietro però una storia che viene da lontano. Il primo nucleo appare nel 1988 in Germania. Sono autonomen, si vestono di nero, ingaggiano una guerriglia continua con la polizia. Il secondo gruppo si organizza sempre nell'88 in America, intorno alle manifestazioni contro il Pentagono e quelle successive contro la prima guerra del Golfo. Teorizzano l'uso della violenza indiscriminata nei cortei, ma non posseggono ancora una strategia comune. L'idea del Black Bloc prende corpo nel 99 a Seattle contro la conferenza ministeriale del WTO, nello stesso anno a Praga contro il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, ma si concretizza certamente a Genova nel luglio del 2001 contro il G8, quando il gruppo appare vestito di nero con bandiere nere e intona la sua marcia di guerra. A Genova il Black Bloc utilizza i cortei di persone pacifiche come carne da macello. La tecnica è quella collaudata e perfezionata. Il Black Bloc trasporta pietre, molotov, masse e spranghe con i carrelli rubati di supermercati. Aggredisce la polizia sulle strade principali e poi si dilegua in quelle secondarie per poi riprendere lo sconto. Altre volte si infiltra nei cortei pacifici togliendosi la divisa. Così le forze dell'ordine effettuano cariche indiscriminate contro tutti. Il blocco nero riappare in Quebec nel 2007 a Roma. Il 15 ottobre del 2011 è la manifestazione degli indignados. E lo scorso giugno a Göteborg, fino a sabato scorso ancora a Roma. In Italia il blocco nero si differenzia da quello presente da anni in Germania, Grecia, Francia, Spagna. Ai gruppi primordiali si aggiungono certamente gli ultra del calcio e anche elementi della destra extraparlamentare che si uniscono contro un obiettivo comune, aggredire le forze dell'ordine. Di questo strano coacervo di interessi di piazza sembra consapevole la polizia, che sabato a Roma ha dato prova di aver compreso la lezione di Genova facendo opera di prevenzione. Cosa hanno capito a nostro avviso i manifestanti pacifici che hanno isolato i Black Bloc mentre stavano organizzando una loro abituale provocazione? Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Parleremo del Festival del giornalismo. Come sapete c'è stata tanta discussione nei giorni scorsi sul tema del finanziamento del Festival del giornalismo e poi, come sempre, ospiteremo una delle persone che digiuna in solidarietà con Roberto Giachetti per la modifica della legge elettorale. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Legge di stabilità, 4 ore di sciopero proclamate dai sindacati. Squinzi dice: spero che non ci siano porcate nell'ambito delle modifiche parlamentari. Letta dice: dobbiamo fare passi avanti nella riforma dello Stato, vanno abbattute le intermediazioni, le sacche di discrezionalità che in Italia sono ancora tante e che bloccano il lavoro delle imprese. Datagate, 70 milioni di telefonate di francesi intercettate in un mese, scontro tra Parigi e Washington, il ministro Fabius convoca l'ambasciatore americano. Claudio Fava di Sel, componente del Copasir, dice: a effetto giorno è successo anche in Italia. Maradona fa il gesto dell'ombrello a Equitalia durante la trasmissione di Fazio, il viceministro Fassina a Radio 24, un gesto miserabile. A Modena, violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni, stuprata da compagni di scuola ad una festa tra quelli che credeva amici. L'hanno fatta bere e poi hanno abusato di lei. La Roma in fuga, la batosta della Juve e la tripletta di Pepito Rossi. Questo il ritratto del fine settimana di campionato. E siamo adesso al nostro appuntamento quotidiano. Andremo avanti perché è una battaglia che ci interessa e la riteniamo una battaglia importante e per molti versi apolitica. E parliamo della decisione di Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, di scioperare, di fare uno sciopero della fame, in favore della modifica e del cambiamento della legge elettorale, al grido di no porcellum. Roberto Giachetti, vi aggiorniamo quotidianamente, naturalmente dal lunedì al venerdì, che sono gli orari nei quali vai, sono i giorni della settimana nei quali va in onda questa trasmissione. Effetto giorno, Roberto Giachetti ha perso ad oggi 6 kg di peso. È partita una staffetta che coinvolge gente comune, attori, registi, cantanti e naturalmente anche politici e deputati. Una staffetta nella quale ogni giorno una di queste persone fa un giorno o due giorni di sciopero della fame in solidarietà con Giachetti. Chi abbiamo in linea oggi? Ernesto Carbone, buongiorno a tutti. Buongiorno, mestiere? Buongiorno, io sono avvocato e deputato pro tempore. Deputato pro tempore di che partito? Partito Democratico. Del Partito Democratico. Ci dice perché ha deciso di fare questo giorno di sciopero della fame? Ma le motivazioni sono tante. Le principali, la prima è solidarietà sicuramente a Roberto. Roberto ci sta mettendo veramente se stesso su questa battaglia. E come ha detto lei poc'anzi, giustamente una battaglia per tutti, una battaglia per il Paese, non è una battaglia del Partito Democratico, né di Giachetti né di nessun altro. Roberto è la bandiera di questa battaglia, ma è una battaglia di tutti. E insomma, lei nutre qualche speranza, Carbone, visto che insomma noi di solito sentiamo, cerchiamo di sentire come dire, gente comune per così dire, no? Mentre invece lei, pur se si riterrà una persona comune, è in Parlamento, ritiene che ci siano possibilità che si vada alla modifica della legge elettorale oppure no? Guardi, io sono ottimista, altrimenti non potrei fare questo lavoro che sto facendo adesso. So però per esperienza, ma glielo dico con estrema franchezza, che la battaglia sarà durissima, dura, perché in realtà tutti parliamo di porcellum con questo nome, ma nessuno ha voglia di modificarlo. Grazie, la ringrazio Ernesto Carbone, deputato del Partito Democratico, per essere grazie, stato con noi. Buona giornata. Poi alla fine raccoglieremo tutte queste voci, già c'è Laura Faggin dall'altra parte del vetro preoccupata perché in parte toccherà a lei. Intanto io vi devo dare due notizie. Prima di andare a sentire che cosa succede su strade e autostrade, innanzitutto un aggiornamento su quello di cui vi parlavamo poco fa, la situazione del maltempo in Toscana. Notizia di poco fa, un uomo è morto a bordo del suo furgone, la persona che, come vi abbiamo raccontato poco fa, era data per dispersa. A bordo del suo furgone sulla strada provinciale 61, nel sottopasso ferroviario all'altezza di Serre di Rapolano, siamo in provincia di Siena. Non è ancora chiaro se l'uomo sia morto dopo aver sbandato con il veicolo a causa del maltempo oppure se l'automezzo sia stato travolto dall'acqua, acqua che ha allagato il sottopasso. Nella zona, naturalmente, in Toscana e in un pezzo della Liguria rimane in queste ore uno stato di allerta. Altra notizia appena battuta dalle agenzie e che arriva dalla Russia, è stato un ordigno, siamo a Volgograd, dove c'è stata un'esplosione a bordo di un bus che ha causato morti e feriti. Sul bus c'erano 40 persone. Bene, da quello che si è appreso ad esplodere è stato un ordigno su un bus di linea. Infine, ultimo aggiornamento che vi diamo sono le parole, l'intervento del Presidente del Consiglio Enrico Letta al forum di Confindustria Digitale. E vi abbiamo riferito le sue parole in merito in generale alla situazione del Paese e in parte alla legge di stabilità. Ebbene, sull'agenda digitale, dice il Presidente del Consiglio Letta, che si sta cercando di correre, ma il frustrare la pubblica amministrazione per attuare le norme fa parte di un lavoro in cui Confindustria ha un ruolo importante. La triade per il futuro delle imprese, aggiunge Letta, è innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione, perché si vince se si sta sul mercato globale. Dice in sostanza Letta, sull'agenda digitale stiamo cercando di correre. Allora, adesso con un lieve anticipo andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade e poi ci ritroveremo come sempre con Mario Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Contro la legge di stabilità ci sono 4 ore di sciopero proclamate dai sindacati, dice il segretario del Partito Democratico Epifani proprio un attimo fa. Bisogna evitare la somma delle richieste e l'inconcludenza dei risultati. Il presidente di Confindustria Squinzi dice: spero che non ci siano porcate in Parlamento. espresso il mio timore, il mio forte timore, che nella fase di passaggio attraverso la conversione da decreto legge a legge in Parlamento saltino fuori le solite porcherie del passato, di cui purtroppo nel nostro paese abbiamo una lunga esperienza. Ecco, io mi auguro che questo non succeda. Maradona fa il gesto dell'ombrello a Equitalia durante la trasmissione di Fazio. Il viceministro Fassina a Radio 24 dice: è un gesto miserabile. Datagate, ci sono 70 milioni di telefonate di francesi intercettate in un mese, rivela Le Monde. Il ministro Fabius convoca l'ambasciatore americano. A Modena, violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni, stuprata da compagni di scuola ad una festa tra quelli che credeva amici. L'hanno fatta bere e poi hanno abusato di lei. Maltempo, trovato morto un uomo nel suo furgone nella zona di Siena, continuano piogge temporali, come avete sentito anche da strade in diretta, soprattutto in Toscana e in Liguria. E ora è il momento di sentire gli aggiornamenti dagli Stati Uniti, come sempre con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Grande tensione a Wall Street, tutti attendono i dettagli di questa multa straordinaria, una multa record, 13 miliardi di dollari che la grande banca JP Morgan Chase dovrebbe pagare al governo americano. Un accordo extragiudiziale dovrebbe essere stato raggiunto nel corso del fine settimana. Ci sono ancora dei punti oscuri, la banca ovviamente ha cercato di resistere fino in fondo, ma c'è anche il tentativo di gettarsi dietro le spalle quella che è stata la grande crisi del 2007-2009. Al centro infatti dell'accordo, operazioni di truffa condotte da una sussidiaria della banca, che la banca allora non controllava neppure, pensate, nel mercato del subprime. Nel frattempo vorrei continuare a dedicare una buona parte del mio spazio a questioni italiane, in particolare al caffè. Il caffè americano ha dominato nel mondo, per esempio con Starbucks. Qui c'è la possibilità di una rivincita. Ho con me i microfoni di America 24 Antonio Baravalle, amministratore delegato della Lavazza. Buongiorno Baravalle. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, lei viene direttamente da Torino, Lavazza headquarters dal 1895, se non sbaglio. Sì, assolutamente, diciamo totalmente azienda e famiglia torinese, quattro generazioni che lavorano nel caffè e miscelano con le loro mani nel caffè. E io ho iniziato anche con loro da torinese questo ulteriore percorso nella mia vita professionale 2 anni fa. Cominciamo da una domanda: c'è una segmentazione di mercato, ecco, come volete crescere? Perché l'espresso mi sembra è soltanto il 2% del mercato globale del caffè in America, che è 500.000 tonnellate se non sbaglio, giusto? Diciamo che quello che si sta creando sono due fenomeni. Uno, c'è una crescita di un segmento importante che è quello delle capsule, che vale quasi il 30%, che cresce veramente oltre il 50% anno per anno, dove noi siamo adesso entrati lavorando proprio con la nostra partnership con Green Mountain Coffee Roaster. C'è poi il mercato delle specialties, che oggi rappresenta circa il 22%, che anche questo è in forte crescita. Avete fatto questo investimento anche in questa società americana, mi pare che sia andato molto bene. Sì, l'investimento da un punto di vista finanziario alla fine oggi è quasi $1 miliardo di cassa, che col 7,8% a fronte di 250 milioni di investimento. E quindi, in quanto tempo questo? Questo in due anni circa. Beh, scusi, ma non le viene la tentazione di vendere? Avete investito 250, no. Avete quadruplicato nel giro di pochi anni? Assolutamente no, perché per noi è una partnership di lungo periodo, perché gli Stati Uniti devono diventare il secondo mercato. Noi dobbiamo arrivare a 4 volte la dimensione di oggi in America. Quindi voi avete oggi il 55% in Italia, ma volete cambiare un po' queste percentuali, cioè volete diventare il primo mercato in America? Assolutamente, la percentuale deve diventare 30% Italia, 70% estero, e il driver di tutta questa crescita deve essere gli Stati Uniti. Molte aziende che hanno seguito un po' questo percorso a un certo punto sono sbarcate in borsa, si sono rese conto che per dover competere con gruppi, voglio dire, come Nestlé, che vale 17 miliardi di dollari rispetto all'1 miliardo di dollari, 1,3 che voi avete di fatturato, ci vogliono delle spalle molto larghe. E per poter competere a livello globale si dice i primi 3, i primi 4, voi siete all'ottavo posto. Riuscirete a farcela? Dovrete andare in borsa? Allora, in questa fase assolutamente no, abbiamo la cassa sufficiente per generare la nostra crescita. Altro discorso sarà fra un po' di anni, quando, se si dovesse ancora confermare il consolidamento del mercato del caffè, un giorno dovremo valutare se saltare una piattaforma magari più grande e farci aiutare il nostro sviluppo internazionale. Ecco, due ultime cose rapide. Avete lanciato recentemente da Italy un vostro nuovo prodotto. Proprio prima parlavo di questo 22% del specialty coffee che sta crescendo. Abbiamo fatto una gamma di 4 referenze per il filter coffee per il mercato americano, che e come meglio adeguare il gusto americano all'esperienza del caffè italiano. In questo contesto qua l'obiettivo è entrare in una porzione molto grande di mercato dove noi ieri non eravamo presenti. Senta un po', ma c'è un piccolo contenzioso, mi sembra, all'Expo 2015, perché abbiamo intervistato il commissario del governo e ci ha detto che il grande flag è Illy. Ma voi ci sarete anche o no? No, assolutamente, noi saremo all'interno dell'Expo, Illy gestirà il padiglione del caffè, che è uno dei padiglioni all'interno dell'Expo. Noi crediamo tantissimo nell'Expo e saremo fortemente presenti in tutto il resto delle aree dell'Expo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Beh, ed eccoci alla canzone del giorno. Chi è Lord? Se non avete ancora sentito parlare, ne sentirete parlare presto. Ella Yelick O'Connor, questo è il suo vero nome, cantautrice, solo 16 anni. Con il suo primo long play ha già conquistato le classifiche e l'attenzione dei media. Huffington Post l'ha definita la prossima regina del pop, e dunque di Lord vi facciamo ascoltare Royals. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Ringraziamo come sempre Mario Platero. Vi ricordo i nostri contatti. Potete scrivermi per insulti, critiche, complimenti su Twitter, se volete, Simone Spezia. C'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e potete contattarci anche là. I ringraziamenti, tutta la redazione di Radio 24, come sempre, Laura Faggin in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti voi per l'ascolto. Effetto Giorno torna domani alle 13, ma non vi libererete di me tanto facilmente, perché oggi mi trovate anche a Focus Economia dopo le 17 e tra un attimo con il giornale della radio delle 14, come sempre. A più tardi.